30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Uno sconto del 30% sulle forniture di gas all'Ucraina e altri 25 anni di permanenza della flotta russa del Mar Nero nella base di Sebastopoli, in Crimea. Accordo siglato il 21 aprile dal presidente russo Medvedev e dal collega Viktor Yanukovych in Ucraina, appunto. Uno scambio che concretizza il nuovo corso delle relazioni tra Mosca e Kiev, assegnando un punto a entrambi. La Russia chiude per i prossimi 30 anni il contenzioso sulle sue navi nel sud. L'Ucraina risparmia sui contratti per le forniture di metano in un momento molto difficile per la sua economia, promettendo così un veloce passaggio alle tariffe di mercato. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Insomma, dopo anni di ripiegamento, la Russia sembra tornare ad espandersi. Lo scambio gas contro spazio per la flotta in territorio ucraino ha dunque il sapore di una svolta nei rapporti tra Mosca e gli stati che ancora 20 anni fa facevano parte del sistema sovietico. L'Ucraina del movimento arancione di Yushchenko ambiva alla NATO, chiedeva ai russi di liberare nei termini e nei tempi stabiliti la base navale in Crimea. Quella di Yanukovych, leader del partito blu più vicino a Mosca, ha invece siglato un accordo dall'alto valore simbolico che indica implicitamente il ritorno di Kiev nella sfera orientale. Tutto questo alla vigilia della grande festa della vittoria sul nazifascismo che in tutta la Russia si celebra il 9 maggio. Mosca, insomma, riparte da alcuni punti fermi, in Ucraina ma anche altrove. E di questo parliamo questa sera con l'inviata del Sole 24 Ore a Mosca, Antonella Scott. Buonasera Antonella. Buonasera. Insomma, segnali di cambiamento. Perché questo accordo, in fondo è un accordo, come dire, pratico, commerciale, gas contro spazio per la flotta, perché è così importante in un'ottica russa? Beh, in realtà è un accordo molto insolito, perché addirittura nel contratto che stipula le nuove condizioni di pagamento delle forniture di gas russo all'Ucraina è contenuta la clausola che riguarda la flotta del Mar Nero. Questo è un modo per Mosca per cautelarsi nel caso gli ucraini cambiassero idea, non ci sarà possibilità, cioè ci sarà la possibilità per Mosca di ritornare indietro e quindi richiamare questi sconti che sono stati concessi. È un accordo che ieri il primo ministro russo Vladimir Putin ha definito molto costoso, quindi non ce ne saranno altri. È stata proprio una circostanza particolare perché testimonia quanto sia importante per la Russia tenere la Crimea. Ecco, perché è così importante Sebastopoli? In fondo, certo, Sebastopoli, Crimea, dunque territorio della Repubblica dell'Ucraina, ma la costa continua e la Russia riprende anche più a Oriente. La Russia ha analizzato la possibilità di costruire una nuova base verso Novorossiysk, che è il loro porto sulla costa russa, che appartiene alla Federazione Russa. Ma naturalmente questa era un'alternativa che sarebbe stata molto costosa, probabilmente molto più costosa di questi 40 miliardi che poi alla fine possiamo dire siano un po' il costo, il prezzo che la Russia paga per poter restare ancora 30 anni. Diciamo, sarebbero 25 anni a partire dal 2017, cioè da quando scade il contratto dell'affitto attuale, più l'opzione di possibili altri 5 anni. Insomma, ci si inoltra pienamente verso la metà del secolo. Ma Antonella, quanto vale l'elemento simbolico? In fondo, Sebastopoli è una parte anche della storia, città di Caterina la Grande, città di, come dire, di tutta una serie di segnali che probabilmente nell'animo russo vanno, come dire, giustificano anche la spesa. Sì, sicuramente in questo modo la Russia perpetua la situazione che era in essere nei tempi dell'Unione Sovietica, appunto la base della flotta sovietica era lì. Non dobbiamo dimenticare che c'è un aspetto molto importante di questo accordo. Finché l'Ucraina avrà nel proprio territorio una base militare straniera, non potrà aderire alla NATO. Questo significa che per questi 30 anni archiviato il problema, diciamo, di la possibilità per l'Ucraina di aderire alla NATO. L'abbiamo detto nel lancio, soltanto pochi anni fa Kiev pendeva decisamente con appunto gli uomini della cosiddetta rivoluzione arancione a trovare un posto all'interno della NATO. In questo naturalmente una opzione che non poteva piacere alla Russia, che lo ha detto in tutti i modi possibili. Ecco, con questo accordo, dici dunque, anche questa questione viene quantomeno congelata. Congelata, sì. È quello che Yanukovych ha fatto capire anche ieri, commentando questo accordo. Lui ha detto che l'Ucraina in ogni caso troverà un suo posto nel quello che lui ha chiamato il triangolo Stati Uniti, Russia, Unione Europea, e continuerà a integrarsi nell'Unione Europea, ma non certo andando contro i desideri di Mosca, e questo naturalmente va verso Mosca. A proposito di valori simbolici, di patria, di patriottismo, il 9 di maggio i russi celebrano, ovviamente ogni anno da più di mezzo secolo, una festa che sicuramente è tra quelle che ha retto tutto, ha retto il crollo dell'Unione Sovietica, ha retto le trasformazioni, ha retto i momenti più bui anche appunto per il popolo russo, la vittoria sul nazifascismo, soprattutto la vittoria popolare, la vittoria di un paese che si è unito in quella che ancora nel 42 sembrava una difesa impossibile. Ecco, naturalmente l'inno nazionale cantato rappresenta anche con forza e con sonorità questo momento, ma il 9 maggio è anche il momento di andare in piazza, è il momento in cui lo scorso anno c'erano 9.000 tra carri armati, soldati, missili, insomma, si mostrano anche i muscoli. Quest'anno che cosa si attende per questa ormai imminente celebrazione? Quest'anno sarà davvero un anno speciale perché siamo al 65esimo dalla vittoria, e per la prima volta accanto alle truppe, penso siano circa forse addirittura 100.000 i soldati che nelle varie sfilate organizzate, che chiaramente non c'è solo Mosca, esatto, ma si sfila sostanzialmente da Vladivostok, esatto, fino ai confini occidentali, quelle che vengono chiamate le città eroe che hanno avuto un ruolo particolare durante la guerra, e sono tante. Però quest'anno per la prima volta sulla Piazza Rossa a Mosca sfileranno truppe, unità dell'esercito americano, dell'esercito francese, dell'esercito inglese, e sembra ormai quasi confermato l'esercito polacco, quelli che vengono chiamati gli alleati. E questo per la Russia è molto importante perché per loro la vittoria, la presenza di americani, oltretutto saranno presenti anche i capi di Stato, è vista come una vittoria della diplomazia russa, un riconoscimento del ruolo che la Russia ha avuto nella sconfitta del nazifascismo, e che è nel momento in cui, come abbiamo visto nei giorni scorsi anche con le vicende, i cambiamenti che ci sono stati nei rapporti con la Polonia, nel momento in cui Putin prende le distanze da quella che è stata l'elemento, la guida staliniana del ruolo di Stalin nella vittoria, quello che resta è comunque, deve essere centrale per i russi. Ecco, è quindi molto importante. Questo prendere le distanze che hai citato, perché dici prendere le distanze dall'immagine staliniana? Forse vale la pena, come dire, segnalare quanto in realtà nelle ultime settimane ci siano stati anche dei segnali in questa direzione, o come dire, delle tentazioni. Sì, per quanto riguarda la sfilata vera e propria, c'è una lotta in corso tra il Cremlino, in sostanza, e le autorità cittadine di Mosca, che sono decise a far apparire in giro per la città dei ritratti di Stalin. Ma una presa di posizione molto importante è venuta ai primi di aprile, quando Putin ha incontrato a Katyn, vicino a Smolensk, il primo ministro polacco. E in quell'occasione, pur senza arrivare a chiedere scusa per il massacro dei 22.000 ufficiali polacchi massacrati dalla polizia segreta di Stalin a Katyn, ha comunque Putin ha chiarito che le colpe di Stalin non devono ricadere sul popolo russo, però ha sottolineato che la condanna di quello che è stato compiuto da Stalin è una scelta che la Russia è una conclusione a cui la Russia è arrivata e su cui non si torna indietro. Naturalmente lui ha ricordato anche le vittime sovietiche russe dello stalinismo. Insomma, nell'arco di poche settimane, poi appunto quella visita di cui parlavi si è conclusa in una tragedia che però a sua volta ha innescato un processo proprio che in queste settimane insomma viene esplicitamente definito come un percorso di riavvicinamento di forti contenuti simbolici. Sembra insomma che all'inizio di questo decennio, visto che si conta da zero se non sbaglio, no? I decenni, quindi all'inizio di questo secondo decennio la Russia stia capitalizzando una serie di risultati in Polonia, in Crimea, a cui abbiamo appena accennato, anche oltre sul Mar Nero, quindi in direzione del Caucaso che però rimane anche forse l'ombra oscura, l'ombra nera dell'attualità russa. 30 minuti in cronaca. Insomma, dopo la notizia, dopo l'annuncio dell'accordo su Sebastopoli in cambio di gas tra appunto Kiev e Mosca, la Russia si prepara alle celebrazioni del 9 di maggio in pompa magna. Certo, questo succede sempre, ma quest'anno con una serie di elementi aggiuntivi, a cominciare dalla sfilata appunto degli Stati Uniti, dei soldati americani e degli altri alleati, ma dicevamo anche in una posizione piuttosto insolita rispetto agli ultimi anni, in una posizione di forza di una situazione, di una serie di dossier che sembrano andare al loro posto, almeno da un punto di vista della strategia, della politica di potenza di Putin e del presidente Medvedev. Vi abbiamo detto Polonia, quindi fase di riavvicinamento. Di avvicinamento che Putin appunto aveva cominciato con invitando Tusk a commemorare insieme. Questa è stata la prima volta che un leader russo è andato a Katyn a fianco di un leader polacco. La tragedia del sabato successivo, ricordiamo, Putin e Tusk erano a Katyn il mercoledì e la tragedia, il presidente polacco che aveva un atteggiamento meno flessibile verso la Russia rispetto a Tusk, quindi non era stato invitato, andava a commemorare le vittime di Katyn per conto suo il sabato successivo. Improvvisamente la tragedia, l'aereo caduto, la morte di non solo del presidente, della first lady e di gran parte dell'elite polacca ha accelerato improvvisamente questo riavvicinamento, se così poi lo confermerà anche il futuro, tra Russia e Polonia, perché i russi sono stati, Putin e Medvedev sono stati molto abili, molto veloci a reagire andando incontro alla Polonia. Putin quel giorno stesso si è precipitato a Katyn, ha abbracciato il premier polacco davanti ai resti dell'aereo caduto. Medvedev ha rivolto un appello in televisione, un messaggio alla popolazione polacca. Insomma, hanno cercato di trasformare quella che poteva essere una reazione negativa da parte, certo, dei polacchi, invece. Anche perché in un primo momento, insomma, un viaggio su un aereo russo, una sensazione, come dire, sì, di brivido, sì, di cosa comunque accade. In realtà, non doveva succedere un'altra volta. Che una tragedia su un luogo della, ecco, tragedia per eccellenza dei polacchi. Ecco, vediamo alcuni altri luoghi che sono luoghi, che sono stati, ma sono, forse vale la pena più di definirli luoghi, perché lungo il Mar Nero, lungo questa costa che lascia appunto la Crimea proseguendo verso Oriente, ci sono tutta una serie di dossier, di problematiche che in qualche modo, anche senza andare in prospettive troppo lontane, ci portano da qui al 2014, quando si terranno i primi giochi olimpici invernali in Russia. paese del Grande Freddo sarà per la prima volta, questi paradossi della storia, avrà i giochi olimpici invernali. Sono dei giochi molto importanti, molto voluti dall'allora presidente Putin, oggi primo ministro. Ecco, e proprio strada facendo si incontra, o a poca distanza, alcuni dei nodi da affrontare: l'Abkhazia da una parte, la Georgia, il Caucaso che ancora pochi giorni fa è tornato così violentemente a, come dire, a battere il colpo nella coscienza collettiva russa. Sì, gli attentati del 29 marzo scorso sono stati un tremendo richiamo alla realtà, al fatto che mentre nel Caucaso in sostanza ogni giorno ci sono incidenti, attentati, di cui però si parla poco perché riguardano solo la Cecenia, le repubbliche vicine, Dagestan, Ingushezia, invece avere 38 morti nel centro di Mosca, davanti alla sede del KGB, dell'ex KGB alla Lubyanka, è un messaggio completamente diverso. Putin per il 2014 ha assolutamente bisogno di avere pace nel Caucaso. Ricordiamo, Sochi è proprio sulla costa, sul mare, ma è anche ai piedi delle prime montagne del Caucaso. È una sorta di Liguria gigantesca, ecco. Nel senso che il mare è immediato, alle spalle la montagna, solo che si sale Sono a 4.000 metri. Del Caucaso. E dall'altra parte ha la Cecenia. Quindi è prioritario per Putin, proprio perché appunto per lui è così importante questo progetto delle Olimpiadi come affermazione della Russia di fronte al mondo. L'altro, appunto, come dicevi Gigi, l'altro punto importante è la Georgia. Anche con la Georgia Putin ha bisogno di trovare una sistemazione. Ecco, la guerra di agosto dello scorso anno ha in qualche modo, anche in quella circostanza, frenato definitivamente un percorso, cioè, lo ricordiamo, il paragone è chiaramente con l'Ucraina, la sua direzione verso la NATO, la Georgia addirittura ha integrato forze armate americane. Insomma, nei momenti della massima debolezza russa, la Georgia è stato uno di quei paesi che ha portato i soldati americani veramente a pochi chilometri dai confini russi, creando anche un atto obiettivamente sfida, che dal mondo slavo, di sfida molto chiara, molto estrema. Ecco, con la guerra di agosto questo percorso è finito? Sembra veramente, perlomeno possiamo dire che la situazione è radicalmente cambiata. Appunto, dicevamo prima della flotta sul Mar Nero, era da lì che sono partite le navi che poi hanno appoggiato l'intervento russo, e questa è una situazione che resterà così per altri 30 anni. Saakashvili, il presidente georgiano, è rimasto adesso solo, ha perso l'appoggio, l'alleanza di Yushchenko, il presidente ucraino. Sembra, non ha più Bush alla Casa Bianca. Non ha più Bush alla Casa Bianca, perché con Obama perlomeno, forse non a parole, ma insomma di fatto c'è un atteggiamento molto diverso, forse potremmo addirittura parlare di accettazione del fatto che la Russia, in questo che la Russia chiama il suo estero vicino, è la padrona di casa, e quindi sta ricostituendo in un modo o nell'altro, in varie misure. Abbiamo visto il Kirghizistan in un modo, in Ucraina in un altro, diverso atteggiamento nei confronti della Polonia. Si sta veramente ridisegnando la presenza, il legame di Mosca con le ex repubbliche sovietiche. La Georgia, rimane ancora il punto irrisolto. Ecco, tutto questo ha quasi un sapore di un ritorno al passato, in realtà in un contesto che però è molto diverso, e sarebbe anche sciocco, come dire semplicemente si torna al passato. No, sono cambiate le dinamiche, è cambiata la Russia, sono cambiati questi paesi. Il 9 maggio volevo tornare sul grande momento della festa. Lo scorso anno, osservando la grande parata, che è sempre un grande spettacolo, proprio cinematografico anche, si vedono oggetti, armi e appunto apparati comunque impressionanti nella Piazza Rossa, abbiamo assistito con interesse alla complicata regia della televisione russa, in cui il presidente Medvedev e il primo ministro Vladimir Putin riuscivano ad essere inquadrati in piani americani difficilissimi, in cui entrambi dovevano essere contenuti. Insomma, la diarchia russa, questa sorta di strana coppia con un presidente apparentemente molto più fragile e un primo ministro, ex presidente, molto più solido, sembra funzionare? Sembra funzionare. Forse potremmo accompagnare all'immagine che ricordavi dei due leader sulla Piazza Rossa un'immagine più recente di questi giorni, proprio di quel sabato in cui è precipitato l'aereo del presidente polacco. Dopo pochissimi minuti, direi quasi, circolava un'immagine, una fotografia di Putin e Medvedev che accendevano un cero in una delle cattedrali di Mosca, per poi appunto prendere le strade diverse, appunto Putin che è corso a Katyn. Si può dire che sicuramente l'immagine di Medvedev come la persona che assume il ruolo più diciamo di apertura nei confronti dell'Occidente si accompagna bene a invece quello che è, diciamo, il cuore della strategia russa, cioè di rimanere, cioè di ribadire la propria presenza, di tornare a rafforzare la propria presenza nell'area, e sembrano davvero funzionare bene, tant'è vero che si parla della possibilità nel 2012, quando ci saranno le elezioni, di un altro scambio, cioè un ticket continuo. Esatto. Insomma, i russi sono stati anche ironici, anche critici su queste due figure in passato, in particolare ovviamente riferito a Medvedev, che era il giovane entrante. Ma la sensazione è che si stiano abituando a questa ennesima particolare modalità di governo di questo grande paese. Sì, probabilmente anche un po' rassegnando, sanno benissimo che per il momento non ci sono alternative e così sarà. Però è vero anche che soprattutto Medvedev fa una capacità di farsi sentire vicino, che è apprezzata soprattutto anche dai giovani. Ecco, perché dici la rassegnazione in qualche modo è un'altra faccia di un'insoddisfazione. Sì, ci sono dei segnali in questo senso. Abbiamo visto nelle ultime settimane alcune manifestazioni a Kaliningrad, in altri luoghi, ma sono segnali, diciamo, significativi o solo? Penso che siano abbastanza significativi, perché il Cremlino ne positive. Tenga conto. Sono segnali inevitabili nel momento in cui comunque c'è una crisi, c'è stata e c'è ancora una crisi economica pesante colpisce gran parte della popolazione. Poi è chiaro che quelli che poi scendono in piazza, se noi guardiamo l'intera popolazione russa, sono una minoranza, ma sono segnali che il Cremlino, mi sembra, col Cremlino intendiamo la diarchia appunto, sembrano molto attenti a saper cogliere. Non ci sono state repressioni nella giornata della rabbia dei primi di marzo, e si tengono in considerazione le richieste, soprattutto dal punto di vista economico. La grande preoccupazione del Cremlino è continuare gli aiuti economici che lo puntellano in tempi di crisi. Insomma, in vista del 9 maggio, che Antonella Scott, come tutti gli ultimi anni, ci racconterai dalla Piazza Rossa? Sì, speriamo, sicuro. Assolutamente sì, come peraltro hai fatto negli ultimi anni qui anche su Radio 24. Io ringrazio Antonella di essere stata qui con noi. Insomma, vedete come da una notizia, uno scambio in fondo, un accordo commerciale tra gas e spazio per le navi, insomma, ci siano molti elementi di riflessione in un momento assolutamente particolare per il nostro grande vicino, si fa per dire, ma insomma il grande vicino di molti paesi d'Oriente, che è la Russia. Siamo arrivati alla conclusione, non mi resta che ringraziare Pietro Lacorte questa sera in regia, ricordarvi radio24.it per sentire e risentire questo e tutti gli altri programmi di Radio 24. Vi auguro un ottimo fine settimana.